خد. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Alif, Lam, Ra. Ecco un libro i cui segni sono stati confermati e quindi esplicati da un saggio ben informato. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Non adorate altri che Allah. In verità sono per voi ammonitore e nunzio di una buona novella da parte sua. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Se chiedete perdono al vostro Signore e tornate a Lui pentiti, vi darà piena soddisfazione in questa vita, fino al termine prescritto, e darà ad ogni meritevole il merito suo. Se invece volgerete le spalle, temo per voi il castigo di un gran giorno. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Ad Allah ritornerete. Egli è onnipotente. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. È per nascondersi a lui che si ripiegano su se stessi? Anche se cercano di nascondersi sotto i loro vestiti, egli conosce quello che celano e quello che fanno apertamente. In verità, egli conosce il profondo dei cuori. في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Non c'è animale sulla terra cui Allah non provveda il cibo. Egli conosce la sua tana e il suo rifugio, poiché tutto è scritto nel libro chiarissimo. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. È lui che ha creato i cieli e la terra in 6 giorni. Allora stava sulle acque il suo trono per vagliare chi di voi agirà per il bene. E se dici, sarete resuscitati dopo la morte? Coloro che sono miscredenti certamente diranno, questa è magia evidente. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E se allontaniamo il castigo da loro fino a un tempo prestabilito, certamente diranno, cosa lo trattiene? Il giorno in cui arriverà, non potranno allontanarlo da loro e saranno circondati da quello che schernivano. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Se facciamo gustare all'uomo la nostra misericordia e poi gliela neghiamo, ecco che ingratamente si dispera. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Se gli facciamo gustare una grazia dopo la sventura, dirà certamente, i mali si sono allontanati da me, e diverrà esultante e borioso. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Tutti si comportano così, eccetto coloro che perseverano e compiono il bene. Essi avranno perdono e mercede grande. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ. Wallahu ala kulli shay'in wakil. Forse vorresti tralasciare una parte di ciò che ti è stato rivelato, e forse il tuo petto è angustiato da quello che dicono, perché non è stato fatto scendere un tesoro su di lui, o perché non è accompagnato da un angelo. In verità tu sei solo un ammonitore. Allah è il garante di tutto. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oppure diranno, lo ha inventato. Di, portatemi 10 sure inventate da voi simili a questa, e chiamate chi potete all'infuori di Allah, se siete sinceri. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. E se non vi risponderanno, sappiate che esso è stato rivelato con la scienza di Allah e che non c'è Dio all'infuori di Lui. Sarete musulmani? Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Coloro che bramano gli agi della vita terrena, sappiano che in essa compenseremo le opere loro e nessuno sarà defraudato. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Per loro, nell'altra vita, non ci sarà altro che il fuoco, e saranno vanificate le loro azioni. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Cosa dire allora di colui che si basa su una prova proveniente dal suo Signore e che un testimone da lui inviato gli recita? Prima di esso c'era stata la scrittura di Mosè, guida e misericordia alla quale essi credono. E quelli delle fazioni che non credono si incontreranno nel fuoco. Non essere in dubbio al riguardo. È la verità che proviene dal tuo Signore, ma la maggior parte della gente non crede. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Chi è più ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah? Essi saranno condotti al loro Signore e i testimoni diranno: ecco quelli che hanno mentito contro il loro Signore. Cada sugli ingiusti la maledizione di Allah. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Coloro che frappongono ostacoli sul sentiero di Allah cercano di renderlo tortuoso e non credono nell'altra vita. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Non sono loro ad avere potere sulla terra e non avranno patrono alcuno all'infuori di Allah. Il loro castigo sarà raddoppiato. Non sapevano ascoltare e neppure vedere. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Hanno rovinato le anime loro e quello che inventavano li ha abbandonati. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Sono certamente quelli che nella vita futura saranno quelli che avranno perduto di più. Innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. In verità, quelli che credono, compiono il bene e si umiliano di fronte al loro Signore, saranno i compagni del giardino e vi rimarranno in perpetuo. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. È come se fossero due gruppi, uno di ciechi e sordi e l'altro che vede e sente. Sono forse simili? Non rifletterete dunque? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Già inviamo Noè al popolo suo. Io sono un nunzio esplicito. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Affinché non adoriate altri che Allah. In verità temo per voi il castigo di un giorno doloroso. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. I notabili del suo popolo, che erano miscredenti, dissero: «A noi sembri solo un uomo come noi, e non ci pare che ti seguano altri che i più miserabili della nostra gente. Non vediamo in voi alcuna superiorità su di noi, anzi pensiamo che siate bugiardi». قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Disse: «Cosa direste, gente mia, se mi appoggiassi su una prova proveniente dal mio Signore, e se mi fosse giunta da parte sua una misericordia che è a voi preclusa a causa della vostra cecità? Dovremmo imporvela nonostante la rifiutiate?» وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. O popol mio, non vi chiedo alcun compenso. La mia ricompensa è in Allah. Non posso scacciare quelli che hanno creduto e che incontreranno il loro Signore. Vedo che siete veramente un popolo di ignoranti. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. O popolo mio, chi mi verrà in soccorso contro Allah se li scacciassi? Non rifletterete dunque? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Non vi dico di possedere i tesori di Allah. Non conosco l'invisibile e neanche dico di essere un angelo. Non dico a coloro che i vostri occhi disprezzano che mai Allah concederà loro il bene. Allah conosce quello che c'è nelle loro anime. Se dicessi ciò, certo sarei un ingiusto. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dissero: «O Noè, hai polemizzato con noi, hai polemizzato anche troppo. Fai venire quello di cui ci minacci, se sei sincero». قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم Disse: Allah, se vuole, ve lo farà venire, e voi non potrete sfuggirvi. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Il mio consiglio sincero non vi sarebbe d'aiuto se volessi consigliarvi mentre Allah vuole traviarvi. Egli è il vostro Signore e a Lui sarete ricondotti. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ. Oppure dicono: lo ha inventato. Di: se l'ho inventato, che la colpa ricada su di me. Non sono colpevole di ciò di cui mi accusate. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Fu ispirato a Noè: nessuno del tuo popolo crederà a parte quelli che già credono. Non ti affliggere per ciò che fanno. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Costruisci l'arca sotto i nostri occhi e secondo la nostra rivelazione. Non parlarmi a favore degli ingiusti, in verità saranno annegati. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. E mentre costruiva l'arca, ogni volta che i notabili della sua gente gli passavano vicino, si burlavano di lui. Disse: se vi burlate di noi, ebbene, allo stesso modo ci burleremo di voi. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. E ben presto saprete su chi si abbatterà un castigo ignominioso, su chi verrà castigo perenne. Hatta idha jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Quando giunse il nostro decreto e il forno buttò fuori, dicemmo: fai salire una coppia per ogni specie e la tua famiglia, eccetto colui del quale è già stata decisa la sorte, e coloro che credono. Coloro che avevano creduto insieme con lui erano veramente pochi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Disse allora Noè: salite, il viaggio e l'approdo sono in nome di Allah. In verità il mio Signore è perdonatore misericordioso. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. E l'arca navigò, portandoli tra onde alte come montagne. Noè chiamò suo figlio, che era rimasto in disparte: figlio mio, sali insieme con noi, non rimanere con i miscredenti. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Rispose: mi rifugerò su un monte che mi proteggerà dall'acqua. Disse Noè: oggi non c'è nessun riparo contro il decreto di Allah, eccetto per colui che gode della sua misericordia. Si frapposero le onde tra i due e fu tra gli annegati. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. E fu detto: o terra, inghiotti le tue acque, o cielo, cessa. Fu risucchiata l'acqua, il decreto fu compiuto. E quando l'arca si posò sul monte Al-Giudi, fu detto: scompaiano gli empi. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Noè invocò il suo Signore dicendo: Signore, mio figlio appartiene alla mia famiglia, la tua promessa è veritiera e tu sei il più giusto dei giudici. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Disse Allah: o Noè, egli non fa parte della tua famiglia, è frutto di qualcosa di empio. Non domandarmi cose di cui non hai alcuna scienza. Ti ammonisco affinché tu non sia tra coloro che ignorano. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Disse: mi rifugio in te, o Signore, dal chiederti cose sulle quali non ho scienza. Se tu non mi perdoni e non mi usi misericordia, sarò tra i perdenti. Qila ya Nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin 'alayka wa 'ala umamin mimman ma'ak. Fu detto: o Noè, sbarca con la nostra pace e siate benedetti tu e le comunità che discenderanno da coloro che sono con te. Anche ad altre comunità concederemo gioia effimera e poi verrà loro da parte nostra un doloroso castigo. Tilka min anba'i al-ghayb nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha. Fasbir innal 'aqibata lil-muttaqin. Questa è una delle notizie dell'ignoto che ti riveliamo. Tu non le conoscevi, e neppure il tuo popolo prima di ora. Sopporta dunque con pazienza. In verità, i timorati di Allah avranno il buon esito. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. Agli Ad mandammo il loro fratello Hud. Disse: O popolo mio, adorate Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui. Voi siete degli inventori di menzogne. Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani, afala ta'qilun. O popolo mio, non vi domando nessuna ricompensa. Essa aspetta colui che mi ha creato. Non capirete dunque? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. O popolo mio, implorate il perdono del vostro Signore e tornate a Lui pentiti, affinché vi invii piogge abbondanti dal cielo e aggiunga forza alla vostra forza. Non voltate colpevolmente le spalle. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Dissero: O Hud, non ci hai recato nessuna prova, non vogliamo abbandonare i nostri dei per una tua parola e non crediamo in te. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Possiamo solo dire che uno dei nostri dei ti ha reso folle. Disse: Mi sia testimone Allah e siate anche voi testimoni che rinnego tutto ciò che associate. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. All'infuori di lui. Tramate tutti contro di me. Non fatemi attendere. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna Rabbi عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. In vero, io confido in Allah, mio Signore e vostro Signore. Non c'è creatura che Egli non tenga per il ciuffo. Il mio Signore è sul retto sentiero. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Anche se volgerete le spalle, io vi ho comunicato quello per cui vi sono stato inviato. Il mio Signore sostituirà il vostro popolo con un altro, mentre voi non potrete nuocergli nulla. In verità il mio Signore è il custode di tutte le cose. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. E quando giunse il nostro decreto, salvammo per misericordia nostra Hud e con lui quelli che avevano creduto. Li salvammo da un severo castigo. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Questi furono gli Ad. Negarono i segni del loro Signore, disobbedirono i suoi messaggeri e avevano obbedito agli ordini di ogni protervo tiranno. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Furono perseguitati da una maledizione in questo mondo e nel giorno della resurrezione. In verità gli Ad non credettero nel loro Signore. Scompaiano gli Ad, popolo di Hud. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. E mandammo ai Thamud il loro fratello Saleh. Disse loro: O popol mio, adorate Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui. Vi creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzaste. Implorate il suo perdono e tornate a Lui. Il mio Signore è vicino e pronto a rispondere. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك Dissero: O Saleh, finora avevamo grandi speranze su di te. Ora ci vorresti interdire l'adorazione di quel che adoravano i padri nostri? Ecco che siamo in dubbio in merito a ciò verso cui ci chiami. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Disse: O popol mio, cosa pensate? Se mi baso su una prova evidente giuntami dal mio Signore che mi ha concesso la sua misericordia, chi mai mi aiuterebbe contro Allah se gli disobbedissi? Voi potreste solo accrescere la mia rovina. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ قل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. O popol mio, ecco la cammella di Allah, un segno per voi. Lasciatela pascolare sulla terra di Allah e fate sì che non la tocchi male alcuno, che vi colpirebbe imminente castigo. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Le tagliarono i garretti. Disse: godetevi le vostre dimore ancora per 3 giorni. Ecco una promessa non mendace. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Quando giunse il nostro decreto, per nostra misericordia salvammo Saleh e coloro che avevano creduto dall'ignominia di quel giorno. In verità il tuo Signore è il forte, l'eccelso. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Il grido investì quelli che erano stati ingiusti e li lasciò bocconi nelle loro case. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. Come se non le avessero mai abitate. In verità i Thamud non credettero nel loro Signore. Periscano i Thamud. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Giunsero presso Abramo i nostri angeli con la lieta novella. Dissero: pace. Rispose: pace. E non tardò a servir loro un vitello arrostito. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Quando vide che le loro mani non lo avvicinavano, si insospettì ed ebbe paura di loro. Dissero: non aver paura. In verità siamo stati inviati al popolo di Lot. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Sua moglie era in piedi e rise. Le annunciammo Isacco, e dopo Isacco, Giacobbe. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Ella disse: guai a me, partorirò vecchia come sono con un marito vegliardo? Questa è davvero una cosa singolare. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Dissero: Ti stupisci dell'ordine di Allah? La misericordia di Allah e le sue benedizioni siano su di voi, o gente della casa. In verità egli è degno di lode, glorioso. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Quando Abramo fu rassicurato e apprese la lieta novella, cercò di disputare con noi a favore del popolo di Lot. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. In vero Abramo era magnanimo, umile, incline al pentimento. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. O Abramo, desisti da ciò che già il decreto del tuo Signore è deciso. Giungerà loro un castigo irrevocabile. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. E quando i nostri angeli si recarono da Lot, egli ne ebbe pena e si rammaricò della debolezza del suo braccio. Disse: Questo è un giorno terribile. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. La gente del suo popolo andò da lui tutta eccitata. Già avevano commesso azioni empie. Disse loro: O popol mio, ecco le mie figlie, sono più pure per voi. Temete Allah e non svergognatevi davanti ai miei ospiti. Non c'è fra voi un uomo di coscienza? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. Dissero: Sai bene che non abbiamo alcun diritto sulle tue figlie, sai bene quello che vogliamo. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. Disse: Se potessi disporre di forza contro di voi, se solo potessi trovare saldo appoggio. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. Gli angeli dissero: O Lot, noi siamo i messaggeri del tuo Signore. Costoro non potranno toccarti. Fa partire la tua gente sul finire della notte, e nessuno di voi guardi indietro, eccetto tua moglie, che in verità ciò che accadrà a loro accadrà anche a lei. In verità la scadenza è l'alba. Non è forse vicina l'alba? أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Quando poi giunse il nostro decreto, rivoltammo la città sottosopra e facemmo piovere su di essa pietre d'argilla indurita. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Contrassegnate dal tuo Signore. Ed esse non sono mai lontane dagli iniqui. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. E ai Madianiti mandammo il loro fratello Shuaib. Disse: O popolo mio, adorate Allah. Non avete altro Dio all'infuori di Lui. Non truffate sul peso e sulla misura. Vi vedo in agiatezza, ma temo per voi il castigo di un giorno che tutto avvolgerà. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. O popolo mio, riempite la misura e date il peso con esattezza. Non defraudate la gente dei loro beni e non spargete disordine sulla terra da corruttori. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin. Wama ana 'alaykum bihafiz. Quello che permane presso Allah è meglio per voi se siete credenti. Io non sono il vostro custode. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Dissero: O Shuaib, abbandonare quello che adoravano i nostri avi, non fare dei nostri beni quello che ci aggrada, è questo che ci chiede la tua religione? Invero tu sei indulgente e retto. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Disse: O popolo mio, cosa pensate se mi baso su una prova evidente giuntami dal mio Signore che mi ha concesso provvidenza buona? Non voglio fare diversamente da quello che vi proibisco. Voglio solo correggervi per quanto posso. Il mio successo è soltanto in Allah. In Lui confido e a Lui ritornerò. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. O popol mio, non vi spinga nell'abiezione il contrasto con me, al punto che vi colpisca ciò che colpì il popolo di Noè, la gente di Hud e il popolo di Sale. Il popolo di Lot non è lontano da voi. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Chiedete perdono al vostro Signore, volgetevi a Lui. Il mio Signore è misericordioso, amorevole. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Dissero: O Shuaib, non capiamo molto di quello che dici e in vero ti consideriamo un debole fra noi. Se non fosse per il tuo clan, ti avremmo certamente lapidato, poiché non ci sembri affatto potente. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Disse: O popolo mio, il mio clan vi sembra più potente di Allah, al quale voltate apertamente le spalle? In verità il mio Signore abbraccia nella sua scienza tutto quello che fate. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. O popolo mio, fa pure quello che vuoi, che anch'io lo farò. Ben presto saprete chi sarà precipitato nel castigo abominevole, chi sarà stato il mendace. Aspettate, che anch'io aspetterò insieme con voi. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. E quando giunse il nostro decreto, per misericordia nostra salvammo Shu'aib e coloro che avevano creduto insieme con lui. Il grido sorprese gli iniqui. L'indomani giacevano bocconi nelle loro dimore. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Come se mai l'avessero abitate. Periscano i madianiti come perirono i Tamud. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. In verità inviammo Mosè con i nostri segni e con autorità evidente. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. A Faraone e ai suoi notabili. Essi obbedirono all'ordine di Faraone, anche se l'ordine di Faraone era iniquo. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Nel giorno della resurrezione precederà il suo popolo come gregge e li abbevererà nel fuoco. Che orribile abbeverata! وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Una maledizione li perseguiterà in questo mondo e nel giorno della resurrezione. Che detestabile dono ricevono! ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Queste sono alcune delle storie delle città che ti raccontiamo. Alcune sono ancora ritte e altre falciate. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ. Non facemmo loro alcun torto, esse stesse si fecero torto. Gli dèi che invocavano all'infuori di Allah non li hanno in nulla protetti quando giunse il decreto del loro Signore. Non fecero altro che accrescerne la rovina. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Castiga così il tuo Signore quando colpisce le città che hanno agito ingiustamente. È invero un castigo doloroso e severo. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Ecco un segno per chi teme il castigo dell'altra vita. Sarà un giorno in cui le genti saranno radunate. Sarà un giorno confermato. وما نؤخره إلا لأجل معدود. Non lo posticiperemo che sino al suo termine stabilito. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Nel giorno in cui avverrà, nessuno parlerà senza il suo permesso, e ci saranno allora gli infelici e i felici. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. E gli infelici saranno nel fuoco tra sospiri e singhiozzi. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Per rimanervi fin tanto che dureranno i cieli e la terra, a meno che il tuo Signore non decida altrimenti, che il tuo Signore fa quello che vuole. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Coloro invece che saranno felici rimarranno nel paradiso fin tanto che dureranno i cieli e la terra, a meno che il tuo Signore non decida altrimenti. Sarà questo un dono senza fine. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Non essere in dubbio a proposito di quello che essi adorano. Non adorano se non come adoravano i loro avi. Daremo loro la loro spettanza, senza diminuzione. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ. Già demma Mosè la scrittura e sorsero divergenze in suo proposito. Se non fosse stato per un decreto precedente del tuo Signore, già sarebbe stato giudicato tra loro. E su di essa sono in dubbio profondo. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. In verità il tuo Signore darà tutti il compenso delle opere loro. Egli è perfettamente al corrente di quello che fanno. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Sii dunque retto come ti è stato ordinato, tu e coloro che si sono convertiti insieme con te. Non prevaricate, che egli osserva quello che fate. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله الله من أولياء ثم لا تنصرون. Non cercate il sostegno degli ingiusti. In tal caso il fuoco vi colpirebbe. Non avrete alcun alleato contro Allah e non sarete soccorsi. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Esegui l'orazione all'estremità del giorno e durante le prime ore della notte. Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. Questo è un ricordo per coloro che ricordano. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sii paziente, che Allah non manda perduta la mercede di coloro che fanno il bene. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Perché mai, tra le generazioni che vi precedettero, le persone virtuose che proibivano la corruzione della terra e che salvammo erano poco numerose, mentre gli ingiusti si davano al lusso di cui godevano e furono criminali? وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Mai il tuo Signore annienterebbe ingiustamente le città se i loro abitanti agissero rettamente. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Se il tuo Signore avesse voluto, avrebbe fatto di tutti gli uomini una sola comunità. Invece non smettono di essere in contrasto tra loro. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Eccetto coloro ai quali il tuo Signore ha concesso la sua misericordia. Per questo li ha creati. Così si realizza la parola del tuo Signore. In verità, riempirò l'inferno di uomini e di demoni assieme. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Ti raccontiamo tutte queste storie sui messaggeri affinché il tuo cuore si rafforzi. In questa sura ti è giunta la verità insieme con un ammonimento ed un monito per i credenti. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Di a coloro che non credono, agite per quanto vi è possibile, che anche noi agiremo. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. ناظرون. E aspettate, che anche noi aspetteremo. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Appartiene ad Allah, l'invisibile dei cieli e della terra. A lui si riconduce l'ordine totale. Adoralo dunque e confida in lui. Il tuo Signore non è disattento a quello che fate.